Ben ritrovati amici all'ascolto, La Rosa Purpura, il settimanale di cinema di Radio 24. Io sono Franco D'Assisti e come ogni fine settimana cercherò di raccontarvi insieme agli amici della nostra redazione quelli che sono i film, le novità cinematografiche sul grande schermo in questo weekend. Se dovessimo tirare fuori un paio di titoli che caratterizzano la settimana, direi Gli Amici del Bar Margherita, il nuovo film di un iperproduttivo Pupi Avati che dopo Il Papà di Giovanna è già di nuovo sugli schermi per la seconda volta in stagione con questo film che forse tocca le sue corde più sensibili. E poi Mostri contro alieni, e anche qui animazione in 3D con questa simpatica storia di invasioni aliene e di una terra difesa dai mostri. Avremo modo poi di giocare insieme con il DVD Game, di raccontarvi gli altri film, ma io voglio sin d'ora stabilire un momento clou di questa trasmissione, perché abbiamo da proporvi un'intervista esclusiva e davvero straordinaria con un grandissimo personaggio come Peter Fonda, che è stato intervistato dal nostro Diego Giuliani. Peter Fonda, ospite del Busto Arsizio Film Festival, abbiamo parlato di Easy Rider. 40 anni fa usciva Easy Rider. Peter Fonda sarà ospite della Rosa Purpurea nel corso del programma. E allora, fatte le presentazioni, cominciamo a fare amicizia con i film nelle sale cinematografiche italiane nel nostro audio sommario. Fare così. Sai che ti vogliamo bene. Allora non chiamatemi più Vater. Non lo chiamiamo più Vater, giurate? Allora tre Campari. Vaterino. Signor Presidente, abbiamo un'emergenza. Ancora una volta, un UFO è atterrato in America, l'unico paese al mondo dove sembra che atterrino gli UFO. La mia ricerca mi ha condotto sul vostro pianeta. Datemelo subito! E per i soldi? Un quarto adesso, il resto alla consegna del morto. È giusto. Ma sei sicura? Ci mettiamo tutto quello che abbiamo. Certo che sono sicura. Sono sicura, ma sì, sono sicura. A un cane non importa se siete ricchi o poveri. Dategli il vostro cuore e lui vi darà il suo. L'abbiamo scelta non a caso questa canzoncina, la ricorderete, di una ventina d'anni fa, che ci introduce a un film da cani. Abbiamo finito il nostro audio sommario con un breve estratto proprio dal trailer di Io e Marley, che ha per protagonista proprio un cane, soprattutto la passione e l'amore che molti di noi hanno per questi animali. Io e Marley, cast non solo da cani ma anche importante in termini di presenze umane, ce lo racconta Annalisa Misceo. Io sono questo e quel segugio impazzito che sto inseguendo è Marley, il peggior cane del mondo. Questo è John Grogan. Marley è il cane che John ha preso per sua moglie Jenny per fare le prove generali di famiglia prima di avere dei bambini. Le femmine vengono 300, i maschi 275. Tranne quel piccolo lì. Lui lo potete avere per 200 netti. Questo? Ma sei dolcissimo, sei un cucciolotto in saldo. Così il cucciolo in saldo entra come un tornado nella vita di John e Jenny, e se già in dimensioni ridotte è in grado di fare danni di una certa gravità, quando cresce le sue performance sono proporzionate alla mole. Ingoia ciondoli d'oro come croccantini, distrugge zanzariere di metallo come fossero di carta e costringe ad arrendersi persino una addestratrice di cani che sembra il sergente Hartman di Full Metal Jacket. Ha mangiato la segreteria telefonica e poi la cornetta del telefono come dessert. Un cane riconosce un solo padrone. Nel vostro rapporto chi è il più autoritario fra voi due? Vabbè, facciamo che all'inizio io sto a guardare. Come pensavo. Marley resta con Jenny e John 15 anni. Assiste alla nascita del desideratissimo primo figlio e a quella del secondo e della terza arrivati per caso. E alle difficoltà di Jenny di portare avanti carriera e famiglia e a quelle di suo marito insoddisfatto del lavoro. Ma soprattutto diventa il protagonista degli articoli migliori scritti da John. Questo è un pezzo esilarante. Davvero? La scuola d'addestramento, il cane che si monta l'insegnante, la grande fuga, è divertentissimo. Mandalo in stampa così com'è. Ed è proprio da questi articoli che nasce Io e Marley. Il film di David Frankel è tratto infatti dall'omonimo libro in cui John Grogan racconta la vita della sua famiglia con il suo cane. Solo questo, non ci sono colpi di scena, non ci sono gag improbabili, non c'è una struttura narrativa complessa. Solo il racconto, molto lineare, di 15 anni di una coppia che diventa una famiglia. Ed è proprio questa la forza di questo film, il saper trattare situazioni in cui tutti prima o poi si imbattono, come spiega Jennifer Aniston, che nel film è Jenny Grogan, la moglie di John, interpretato da Owen Wilson. Il matrimonio, i bambini, la carriera, il successo contro il fallimento, la competizione, Il domandarsi se si sta facendo la scelta giusta sono tutte questioni che nella vita ognuno di noi si trova ad affrontare. E poi c'è l'amore degli animali, soprattutto quello dei cani. Un cane ti ama incondizionatamente, non chiede niente, tutto quello che vuole è poterti voler bene. Sin dalle prime scene, Io e Marley farà tirare un sospiro di sollievo a chi un cane non ce l'ha per i guai cui si sottrae ogni giorno, ma farà ridere di gusto chi ha quei guai e così abituato da non farci più caso. Alla fine, però, tutti quanti siano pronti a tirar fuori i fazzoletti. Grazie ad Annalisa Misceo che ci ha raccontato Io e Marley. Noi a questo punto andiamo a vedere un po' come sono andate le cose al botteghino 7 giorni fa. C'era una matassa travolgente, c'erano i mostri oggi che arrivavano nelle sale, ci si aspettava il botto da parte del film di Enrico Oldoini, invece l'MLM raggiunge il primo posto in classifica, un film nelle sale già da qualche settimana, come Gran Torino di Clint Eastwood. Ma ci racconta tutto nella Screen Parade Daniela Fagion. 5 nuovi arrivi tra i 10 film più visti nel fine settimana, sono 2 quelli in top 5, a partire dal 5° posto di Push. Il thriller fantascientifico con Dakota Fanning raccoglie in 3 giorni 720.000 euro. Io vedo il futuro. In questo momento il nostro futuro non è fantastico. Scende dal podio ed è 4° diverso da Chi. La commedia con il triangolo argentero Gerini Nigro raccoglie altri 820.000 euro e sfiora i 2.300.000. Medaglia di bronzo per La Matassa. Dopo 2 settimane al vertice, Ficarra e Picone perdono il primato ma incassano altri 850.000 euro e superano i 6.600.000. Oltre il milione subito terzo, I Mostri Oggi. Il film diretto da Enrico Oldoini aspira a essere il terzo capitolo della serie avviata da Dino Risi negli anni 60, ma non conquista la vetta. 1/2 volte a settimana, scriva. E sua moglie? Beh, guarda, lo fa solo con me. È sicuro? Dopo aver scaldato i motori per 2 settimane, balza dal 2° al 1° posto Gran Torino di e con Clint Eastwood. 1.260.000 euro nel fine settimana e un totale che supera i 5.600.000. Hard locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Questo allegro swing che sentite in sottofondo è la musica originale composta da Lucio Dalla per Pupi Avati per il suo nuovo film Gli Amici del Bar Margherita, con il quale apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea. Pupi Avati che torna ancora una volta pochi mesi dopo il papà di Giovanna nella sua Bologna, nel centro storico del suo cinema, si sposta di poche centinaia di metri rispetto agli eventi narrati nel film drammatico con Silvio Orlando e Alvar Horvacher, e questa volta cambia anche completamente il clima, ritrovando le atmosfere del suo cinema delle origini. La storia è semplice: è il 1954, sotto i portici di Bologna un ragazzo di nome Taddeo, 18 anni, vive ancora in famiglia e ha un sogno, quello di entrare a far parte dei frequentatori, insomma di essere accettato in questo clan buffo e strampalato dei frequentatori appunto del bar Margherita, che si trova proprio lì di fronte a casa. Come sentiremo fra poco nell'intervista con Pupi Avati, ogni riferimento autobiografico non è per nulla casuale. Con un po' di fortuna Taddeo riesce a entrare nel giro come autista di Al, che è un po' il leader carismatico di questo gruppo, e da lì conoscerà una serie di personaggi come Bep, sempre con i guanti da autista in mano perché un giorno il papà gli regalerà una Porsche, come Gian, che è tutto felice per aver ricevuto una lettera di invito al Festival di Sanremo, oppure ancora Manuelo, un Luigi Locascio che spoglia le donne con gli occhi. Sono tanti i personaggi di questo film, un film corale. Ascoltiamo un passaggio del trailer per comprendere meglio il clima ironico e anche un po' nostalgico di questo film. L'ho trovata. Chi? La maestra di pianoforte. E cosa ne facciamo di una maestra di pianoforte? Cosa si fa con una maestra di pianoforte? Si prendono lezioni. Ah! Hanno preso la mia canzone a Sanremo, guarda! Perché non guardi avanti? È che sono lenfomane. Cos'è? È una malattia incurabile. Interessante come l'epicentro del film sia ancora una festa, come ricorderete in Festa di laurea, dove un bacio dato per caso cambiava la vita a un personaggio. Ebbene, questa volta una festa di compleanno in casa è appunto il momento cruciale, lo snodo narrativo del film. Avati dirige con mano leggera, ritrovando quel cinema sorridente che ci aveva abituato ad amare negli anni Ottanta. Schiera alcuni dei suoi attori feticcio vecchi e nuovi, come Gianni Cavina, Diego Batantuono, Neri Marco Re, ne ingaggia degli altri come Luigi Locascio e Fabio De Luigi. Un film che restituisce allo spettatore la fotografia di un'Italia che non aveva ancora smarrito l'incanto dello sguardo. Ma ascoltiamo l'intervista a Pupi Avati. Pupi Avati, gli amici del Bar Margherita, Bologna anni 50, come dire bentornato a casa. Grazie, bentornato a casa, ci sono sempre rimasto a casa. Anche il papà di Giovanna era a Bologna, però negli anni 30, quindi anni cupi, bui, abbiamo spalancato le finestre, abbiamo fatto entrare le canzonette di Sanremo, i rumori delle motorette, delle lambrette, del boom economico, quindi festosità, gioia, dissipazione del tempo, stupidità, la coglioneria come massimo dei valori. Questo è il film di Bar Margherita. Un film che ha, potremmo dire, per protagonista un bar, cioè un locale. Assolutamente sì, il Bar Margherita è il protagonista di questa vicenda. I clienti del Bar Margherita di quell'anno, tutti immaginari, frutto di una serie di personaggi, di suggestioni che mi derivano da un arco più lungo della vita, non dal 54, ecco, confluiti lì in quell'anno per dare il peggio di loro stessi. Rispetto al cast, tanti nomi importanti del nostro cinema. Sì, c'è una gerarchia come esisteva nei bar, c'è un leader, il boss, che è naturalmente Diego Batantuono, lo anche fisicamente, e poi via via negli vari ambiti, l'erotomane, il giocatore biliardo, il campione di ballo, una serie di personaggi, tutti con delle loro peculiarità, che però riescono a far squadra nel momento in cui questa coesione maschile viene messa in qualche modo in discussione dall'appalesarsi della donna, che è elemento in quegli anni fortemente perturbativo. Ci sono elementi forse un po' più autobiografici dentro questo film rispetto al precedente? Beh, sì, io non ho avuto una figlia che mi ha stato il compagno di banco, quindi questo è una Bologna che sicuramente è stata più sua, volevo dire. Sì, questo sicuramente fa la differenza, ma fa la differenza anche il fatto che io transitassi di fronte alle vetrine di quel bar senza avere il coraggio di entrarci, vedendo quegli esseri umani come un modello di riferimento per diventare da grande come loro. Fortunatamente non è andata così, la mia timidezza ha fatto sì che io non riuscissi mai ad accedere in realtà a questo bar e quindi abbia poi scelto dei percorsi di vita diversi. A livello scenografico, reinventare una Bologna che lei ha visto, che tipo di difficoltà ha creato? Ma devo dire molto, molto limitate, nel senso che Cinecittà oggi offre l'opportunità di ricostruire con una fedeltà assolutamente puntigliosa quelli che sono dei contesti anche urbani, non soltanto di interni, ma urbani, che sono assolutamente strepitosi. Ho inventato poco a livello logistico strutturale, ho inventato molto nei riguardi della vicenda dei personaggi che naturalmente, come un po' in qualche misura mi avevi insegnato a fare quello che è stato il mio papà e la mia mamma, che si chiamava Federico Fellini, in qualche modo, che è meglio ricostruire Rimini a Cinecittà piuttosto che andare a girare a Rimini, ed è meglio ricostruire Bologna e Bar Margherita a Cinecittà piuttosto che andare a cercare un Bar Margherita ipotetico che non esiste più. Gli amici del Bar Margherita, il nuovo film di Pupi Avati. Noi a questo punto giochiamo insieme, cominciamo a giocare con il nostro DVD game. Come sempre vi faremo ascoltare tre frammenti, tre dialoghi tratti da un film che dovrete indovinare. Il più veloce dei nostri ascoltatori, che indovinerà il sabato e la domenica, riceverà poi a casa il DVD proprio di questo film. Ascoltiamo la prima traccia. Fa vedere come combatti. Pronto? No, alla Kay non si balla. Ti diverte molto, non è vero? Andiamo, forza, riproviamoci. No, alla Kay. Basta, smettila ora, smettila, sacripante. La rosa purpura @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica al quale dovete scrivere se avete già indovinato di che film si tratta. Il cinema della crisi è il protagonista del prossimo film di cui vogliamo parlarvi, Louise Michel, un nome e un cognome, è quello di un'anarchica francese dell'Ottocento, preso solo a spunto, in questo caso dal regista Gustave de Kervan, perché in realtà si tratta di un film tutt'altro che biografico, però è un film che racconta il nostro presente, racconta di una fabbrica in crisi e delle sue operaie. Nel cast c'è Bully Lanner, che è stato l'autore e l'attore protagonista dello straordinario Eldorado Road lo scorso anno a Cannes, ma troviamo anche un attore come Mathieu Kassovitz. Il film è piaciuto molto alla nostra Daniela Fagion. Avete saputo rinunciare alle 35 ore, avete saputo rinunciare agli aumenti di salario, avete saputo rinunciare ai buoni pasto, e allora oggi non rinunciate al regalo che vi fa l'azienda. Commovente quello che il direttore di una fabbrica della Piccardia ha in serbo per le sue operaie, un bel camice personalizzato con il nome ricamato sopra, e il giorno dopo, a sorpresa, l'azienda completamente smantellata, in cambio 100 euro di liquidazione per ogni anno trascorso al servizio dei padroni. Un gruppo di lavoratrici decide allora di mettere insieme i soldi di tutte e realizzare un progetto comune. L'idea di Louise sarà la più apprezzata. Con 20.000 euro potremmo fare ammazzare il padrone da un professionista. Pare incredibile che una signora di messa come Louise possa avere a che fare con un killer professionista, ma il caso le dà una mano e le fa incontrare Michel, l'uomo giusto al momento giusto. Kennedy, è stato lui. Ma non bisogna parlarne in giro. Louise e Michel si mettono sulle tracce del padrone, che in tempi di economia globalizzata non è poi così facile individuare. L'apparenza inganna, d'altronde ci vogliono coraggio, tenace e un pizzico di follia per andare avanti e trovare nuove strade per la propria felicità. Personaggi sgangherati ma vivissimi, quelli che Benoît Delépine e Gustave Kervern seguono nelle loro vicende, stralunate e crude al tempo stesso. Louise Michel è una bella prova di arguzia e di cinema, un film intelligente e beffardo, con una cattiveria e una rabbia di midollo che in Italia sembra ormai impossibile trovare, almeno non con lo stesso umorismo. Più che macchiette, i protagonisti sono macchie d'inchiostro nero che schizzano fuori da ruoli appena definiti e sanno far riflettere molto meglio di tante riflessioni su crisi economica ed identità, paure globali e un mondo che è comunque sempre nuovo in ogni bambino che nasce. Ed è il momento adesso di parlare di un'altra pellicola che arriva nelle nostre sale, Mostri contro alieni. È un film molto atteso, un film d'animazione tridimensionale che racconta la storia di una invasione aliena e di una terra che ha bisogno dei mostri per farsi salvare. Sono mostri un po' sui generis, fanno ovviamente ridere, fanno abbastanza tenerezza. Ha visto per noi Mostri contro alieni, Barbara Righini. Susan è una ragazza entusiasta del suo prossimo matrimonio, sta per dire sì all'uomo della sua vita, ma nel giorno delle nozze, proprio sul più bello, le succede qualcosa di strano. Sei luminosa. Grazie. No, no, Susan, sei davvero abbagliante, sei verde. Oh no, mi state rispicciolendo. Sei tu che cresci! Beh, allora fermami! Già, Susan cresce e cresce fino a diventare un gigante. Gli uomini del governo entrano in azione e, men che non si dica, Susan viene rinchiusa in una prigione di massima sicurezza. La verità è che la giovane purtroppo si è imbattuta in un meteorite e probabilmente è stata esposta a radiazioni. Nel 1950 decisero che Mr. Kentucky e signora non avrebbero letto la verità sui mostri e che dovevano concentrarsi su cose più importanti, come pagare le tasse. Così il governo ha convinto il mondo che i mostri erano roba da miti e leggende e li ha rinchiusi in questa apposita struttura qui. I compagni di prigionia di Susan sono Bob, sorta di ammasso gelatinoso senza spina dorsale, indistruttibile, il professor Scarafaggio, un ex scienziato che è metà insetto e metà uomo, l'anello mancante, una specie di pesce antropomorfo, e un'enorme larva. I mostri, buffi e simpatici, saranno assoldati dal generale Monger per combattere contro un'invasione aliena quando tutte le possibilità umane di difesa saranno fallite. Oh, baby, let's get down tonight. Jeffrey Katzenberg, a capo della DreamWorks, punta sull'animazione 3D e questo Mostri contro alieni, pur non brillando per originalità nella trama e nello sviluppo, è divertente anche in virtù della terza dimensione. Lo spettatore si sente a tu per tu con questi strani esseri, che siano mostri o alieni. Moltissime le citazioni di altri famosi film, il giochino funziona per un po', ma alla lunga rischia di essere esercizio di stile fine a se stesso. Un panno sbattuto da una finestra da un'anziana signora nella Parigi di fine Ottocento, un bambino che corre in mezzo alla neve e l'inizio, con le note straordinarie di Giacomo Puccini, di Bohème, il film. La regia di Robert Dornelm, i protagonisti sono due grandi cantanti lirici, per una volta credibili anche come attori, Anna Netrebko e Rolando Villazon. La Bohème arriva nei cinema italiani e ci arriva in un modo abbastanza particolare, di cui parleremo fra poco con il suo distributore, Sergio Oliva. Ma prima concentriamoci sul film. Come dicevamo, è l'opera di Giacomo Puccini, messa in scena dall'inizio alla fine. Il cinema molto spesso si è sposato con l'opera per cercare di rendere in maniera più moderna quello che è il più grande spettacolo cantato di tutti i tempi. Questa volta l'opera è di quelle giuste per appassionare anche un pubblico di giovani, perché Bohème, lo ricordiamo, una delle più grandi storie d'amore e di gioventù mai narrate, e Robert Dornelm usa straordinariamente l'elemento cinematografico, il mezzo cinematografico, cambiando i piani narrativi, facendoci ascoltare le note e le parole di Giacomo Puccini, di Illica e Giacosa, ma anche facendoci vedere contemporaneamente dell'altro. Insomma, fa cinema a tutti gli effetti ed è una storia straordinariamente appassionante. Tra l'altro il film esce con i sottotitoli italiano, così sarà come essere all'opera, potremo capire sempre perfettamente tutto quello che i cantanti stanno dicendo. La storia la conoscete probabilmente, quella immortale di Mimì e Rodolfo, lui poeta innamorato, lei ricamatrice malata di tubercolosi e votata a un destino fatale. I due si innamorano in una fredda soffitta parigina, appunto di fine Ottocento, riscaldata solo dall'amicizia, da tanta joie de vivre degli amici di Rodolfo, che coinvolgono anche in questo giro musetta. Una prima parte gioiosa, innamorata, solare e divertente, una seconda parte drammatica che riflette sull'amore e sulla morte. Sono le due facce di quella medaglia chiamata vita. Come dicevamo, il film avrà una distribuzione abbastanza particolare. Il film sarà nelle sale il 6 aprile, attenzione, non dal 6 aprile, ma il 6 aprile, nei cinema Apollo di Milano, Lumière di Bologna, Quattro Fontane di Roma e Colonna Atelier di Firenze. Poi dal 7 aprile Torino, Sesto San Giovanni, Verona, come fosse un tour. Date uniche, il film è nelle sale solo quel giorno, io vi consiglio vivamente di andarlo a vedere perché è uno spettacolo straordinario, e poi se le cose andranno come i distributori sperano, si potrebbe anche raddoppiare e portare avanti ancora questo esperimento di opera al cinema. Ne parliamo con Sergio Oliva, che è il distributore in Italia di Bohème. Iniziamo così, devo dire che la risposta al momento dell'esercizio è abbastanza numerosa. Abbiamo già inserito quasi una quarantina di date di programmazione e pensiamo di arrivare almeno a 100, e non è detto che se la richiesta, come speriamo ci sia ed soprattutto sia un po' forte, il film poi possa rimanere di più in programmazione. Questa è una scelta da una parte anche per limitare gli investimenti di uscita, perché un'uscita cinematografica normale fa sì che il costo pubblicitario sia molto elevato, per cui stiamo limitando, diciamo, un pochettino i costi anche in funzione di quello che pensiamo possa essere un risultato. Intanto già su Milano abbiamo già previsto delle repliche, probabilmente faremo lo stesso a Roma. Proprio il concetto di lanciare tutta la promozione su una giornata sola sicuramente concentrerà un po' di più gli spettatori. Grazie a Sergio Oliva, ricordiamo La Bohème di Robert Dornelm al cinema. Noi siamo di nuovo al DVD Game, siamo di nuovo a farvi ascoltare una traccia del film misterioso di questa settimana. Non credo che l'idea sia piaciuta tanto, Julian. Che stai dicendo, Stevie? Oh, no. Se possiamo... No, non puoi averlo detto, non è proprio possibile! Ah, brutto cattivello! Stevie dice... Shair, Manis Nammer. La Rosa Purpura è @radio24.it, ve lo ricordo ancora, è l'indirizzo di posta elettronica per giocare. Se non avete ancora capito che film è, più tardi avrete un'altra possibilità. Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo. È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Un estratto audio di un film memorabile, storico, che ha tracciato un solco nel cinema americano di fine anni 60 e ha aperto una strada a un certo modo di esprimere la ribellione nel cinema negli anni a venire. Stiamo parlando di Easy Rider, un film che compie 40 anni quest'anno. Per celebrarlo al Busto Arsizio Film Festival è arrivato niente meno che Peter Fonda. Peter Fonda, l'attore che più di altri ha incarnato, e non solo in questo film, la ribellione, una generazione, quella appunto del 68, che rompeva gli schemi con la cultura imperante. Peter Fonda quindi è passato qui a Milano, noi non ce lo siamo fatti sfuggire, il nostro Diego Giuliani lo ha intervistato ed è venuto fuori un bel ricordo di quello che è stata l'esperienza di quel film e di come sia cambiata, come si sia evoluta l'America sognata da quella generazione alla fine degli anni 60. Peter Fonda al microfono di Diego Giuliani. Maggio 1969, al Festival di Cannes approda un film indipendente che subito si impone come migliore opera prima. La giuria che lo premia intuisce di trovarsi davanti ad un passaggio epocale, un film che di lì a poco avrebbe cambiato la storia di Hollywood e del cinema in generale. Mentre i giovani gridano il loro no alle follie del Vietnam e l'America si prepara alla tre giorni di Woodstock, la storia di due motociclisti che attraversano gli Stati Uniti diventa il manifesto di un'intera generazione che nell'età dell'acquario affida alla sua pacifica trasgressione la speranza di un domani diverso. Easy Rider compie oggi 40 anni, occasione perché Peter Fonda, sceneggiatore, produttore e attore simbolo del film insieme al regista Dennis Hopper, riceva dal Festival di Busto Arsizio un riconoscimento alla carriera. Noi lo abbiamo incontrato e tra marcorde e qualche tardiva rivincita gli abbiamo chiesto di accompagnarci dietro alle quinte di questo indimenticabile capolavoro. We were looking at ourselves then. We were seeing poverty. We were seeing opulence. Guardavamo a noi stessi allora e vedevamo la povertà, ma anche la ricchezza, l'opulenza, il razzismo. Ho scritto Easy Rider in 3 ore, dall'1:30 alle 4:30 della notte del 27 settembre 1967. Era lo specchio del mio disagio nei confronti dell'establishment. Volevo fare qualcosa che scuotesse davvero la gabbia, non solo i politici, ma anche le madri e i padri di tutto il mondo. Anche se allora pensavo soprattutto agli Stati Uniti e al conflitto che stava opponendo vecchie e nuove generazioni a causa di quella folle e stupida guerra. Eppure nel film non mostravamo nulla del Vietnam, nulla delle proteste. Parlavamo di noi stessi e di come ci sentivamo negli Stati Uniti. Il fatto è che abbiamo rovinato tutto e continuiamo a farlo, ma oggi due volte di più. I think the audience of today, this present time. Se sarà in grado di andare al di là delle apparenze, dei vestiti che allora indossavamo e di guardare invece all'essenza dei personaggi, il pubblico di oggi potrà vedere quanto il film sia ancora attuale. Anche in un paese che amo così tanto come l'Italia, basta guardare fuori dalla finestra per rendersi conto di come stia andando tutto a rotoli. Quello che mostriamo sono razzismo, povertà, intolleranza, tutte cose che a guardare bene, e non serve spalancare gli occhi, sono ancora oggi fra noi. E credo che i giovani di oggi abbiano assolutamente capito quello che intendevo. I think that today's audience, young audience, that they're getting what I meant. We all ask that same question. What happened to the physical protest? Che fine abbiano fatto quel fermento e quella protesta? È la domanda che ci facciamo tutti, soprattutto oggi alla luce di tutte le ingiustizie che la politica ci sta mostrando. Penso all'Iraq, penso all'Afghanistan, due guerre che non hanno davvero niente a che fare con la nostra vita. È una follia. Il fatto è che la religione si è risvegliata e ha mostrato un volto davvero orribile. risorta dalle ceneri e sta prendendo il sopravvento sulla politica. Gli americani non fanno che dire quanto sia terribile l'Islam, con le bombe, gli attentatori kamikaze, ed è quello che sentono. Ma poi anche i musulmani dicono che i cristiani sono cattivi, ci uccidono, vogliono il petrolio, non ci lasciano vivere il nostro credo. In 40 anni siamo tornati indietro di secoli. Quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria nuova ondata di guerre di religione. What's happened now is we have another set of religious wars that are going on. If the sun refuses to shine, I don't mind. If there is anything that we can do now, it is to try and help President Obama. Se c'è qualcosa che adesso possiamo fare è aiutare il Presidente Obama, provare a cavalcare la speranza che ci ha regalato. Dobbiamo trovare in noi stessi il modo per portare avanti questa battaglia, perché tutti possiamo, ma dobbiamo volerlo davvero. Quello che lo aspetta è un duro lavoro, ma sono convinto che può farcela. Il pericolo è che si finisca per dirsi, ok, lasciamolo fare. Questo invece non possiamo permettercelo, non possiamo sederci e lasciare fare tutto a lui. Dobbiamo schierarci con Obama e lavorare con lui. We can't sit down and let Obama do it. We have to get up and join Obama and let and all of us can do it together. Le parole di Peter Fonda raccolte da Diego Giuliani in una intervista per La Rosa Purpurea. Over the years, they've taken you on amazing journeys to worlds you've never imagined and places you've only dreamed of. Eccoci alla quarta parte della Rosa Purpura che abbiamo aperto con un trailer originale, perché è proprio con Trailer USA, la rubrica che ci porta ogni settimana tutte le novità dagli Stati Uniti, che apriamo questa ultima parte del nostro programma. Per la prima volta sarà un cartone animato ad aprire il Festival di Cannes dal prossimo 13 maggio. I pochi secondi di audio che avete sentito riguardano infatti Up, come dicevamo, film d'animazione in 3D della Disney Pixar, che aprirà la kermesse francese con la giuria presieduta quest'anno da Isabelle Huppert. E allora salutiamo la nostra Micaela Bellisario, che ci racconterà un po' in anteprima questo Up della Disney. Ciao Micaela. Ciao Franco. Parlaci un po' della trama di questo film. Certo, Up è la storia di Carl Fredricksen, un signore piuttosto anziano che sogna di volare in mongolfiera nell'America del Sud. Un giorno questo sogno si avvera, ma si ritroverà ad essere accompagnato da un personaggio imprevisto. Ecco qui il passo del trailer in cui questo signore vola via facendo un po' pernacchia a tutti e ritrovandosi poi con questo strano coinquilino. Come on, boys! Ecco, lo strano coinquilino è Russell, un boy scout di 8 anni, e sarà colui che questo signore Fredricksen intraprenderà il viaggio dei suoi sogni in Sud America. Qui incontreranno animali selvaggi e persino degli inaspettati nemici, ma sentiamo in questo passo del trailer come avviene il loro incontro. Hi Mr. Fredricksen, please let me in. No. Grazie a Micaela Bellisario che ci ha raccontato le sue novità americane, novità d'animazione. In questo caso noi siamo arrivati alla terza finestra aperta sul DVD Game di questa settimana. Me e miei amici. Vola, vola. In grande uccello di metallo. Poi. Precipita. Schianta a terra. Fa. Boom. Che dici, sta mimando un disastro aereo? La Rosa Purpura è @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere questo DVD di cui vi abbiamo fatto ascoltare una traccia che dovrebbe essere ormai rivelatrice. E a proposito di DVD, ecco arrivare il momento di annunciare e salutare Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, 7 giorni fa avevamo fatto ascoltare 3 tracce di un film mitico, per una volta l'aggettivo non è sprecato, andiamo ad ascoltarne una insieme. Guarda papà, guarda! Aspetta, stai fermo. Chi sono quelli? Sono i tuoi compagni di scuola, Bambini, bambine, su, infilati la giacca. Si trattava di Pinocchio, il grande Pinocchio Disney, l'avete indovinato in molti, avete giocato in tanti. I due più rapidi sono stati Aldo Fabbro di Trieste e Paola Ciampolillo di Monza, che riceveranno a casa questa edizione in DVD, ma anche in Blu-ray, perché il grande classico Pinocchio Disney torna nel suo splendore grazie appunto anche all'uscita in alta definizione, Claudio. Sì, esattamente, edizione per il 70° anniversario, vede per l'home video appunto una versione, due dischi DVD che include appunto il film interamente restaurato in audio e video, un lavoro assolutamente superbo che ha consentito di riportare nel loro pieno fulgore le tavole originali di Disney e numerosi approfondimenti relativi alla lavorazione con scene eliminate, finale alternativo. Ricordo che la versione Blu-ray contiene anche appunto, oltre ai due dischi Blu-ray, l'edizione DVD del film. A proposito di questo Pinocchio, c'è stata una grande conferenza stampa di presentazione di questa uscita in Blu-ray, di questo straordinario capolavoro. C'è stata anche una bellissima mostra su tutto quello che riguarda Pinocchio all'Atelier Gluck a Milano, che si è chiusa proprio poche ore fa, ma è stata anche l'occasione per avvicinare alcuni testimonial del grande Burattino. Noi vi facciamo ascoltare quello che Claudio ha raccolto da un grande dell'animazione italiana come Bruno Bozzetto, sentiamo. Il mio Pinocchio è stato quello di Disney, perché io quando è uscito Pinocchio avevo 9 anni e ricordo che è stato uno shock vedere questo film che mi riportava in vita un personaggio che io avevo letto ovviamente come tutti, ma che mi aveva un po' preoccupato, perché da bambino quando leggevo certe cose della favola e quindi cose un po' crude, perché d'altronde non era stato scritto per bambini, era stato scritto per i genitori, e quando invece le ho ritrovate in un mondo fatato, magico, allegro come quello di Disney, chiaramente mi aveva sconvolto, mi era piaciuto moltissimo. E per me Pinocchio è rimasto quello. E lasciamo il mondo fatato di Pinocchio per raccontare qualcosa di molto più concreto e molto più vicino ai giorni nostri, ovvero la storia del presidente George W. Bush, raccontata da Oliver Stone nel film W, che ha avuto una distribuzione abbastanza particolare in Italia, prima al Festival di Torino, poi in televisione e poi in qualche sporadica sala. Adesso arriva l'uscita in un video, sentiamo la clip. Forse hai detto qualcosa sull'Iraq? Sì, ha parlato di piani segreti per rovesciare il governo. Si chiede perché Saddam è diverso dagli altri dittatori e che diritto abbiamo di attaccare l'Iraq. E tu le hai detto che non mi piacciono quelli che gasano la gente? Beh, le ho detto sì, pressa poco questo. Dall'Angelo Pictures ha avuto l'ardire di acquisire questo film per l'edizione video italiana. Nessuno pareva interessato, grazie a loro arriva una doppia edizione per l'home video, la versione due dischi DVD che ci racconta la vita di questo potente uomo che per 8 anni ha governato sul mondo, arriva questa edizione due dischi DVD dove il primo contiene solo il film, sono 127 minuti di opera con tracce in italiano e in inglese in Dolby Digital Multicanale. Il suggerimento è di ascoltare assolutamente anche quella originale per cogliere maggiori sfumature, e il secondo disco diversi approfondimenti con numerosissime riflessioni molto interessanti da parte del regista Oliver Stone. Ricordo che oltre a questa edizione due dischi DVD è disponibile anche la versione Blu-ray alta definizione. Ed è arrivato il momento invece di parlare di un grande attore che ci ha lasciato pochi mesi fa, parliamo di Paul Newman. La sua scomparsa forse ha un po' accelerato l'uscita in un video di alcuni film che per il momento non si erano mai visti fra quelli della sua produzione. Non è che si tratti sempre di capolavori, alcuni film sono più riusciti, altri meno, ma insomma è importante poterli vedere per la prima volta in un video. Noi vi facciamo ascoltare la clip di uno di questi film editi da Warner, che è Ormai non c'è più scampo. La lava si dirige proprio verso l'albergo. È meglio che cominci ad organizzarti per far partire tutti da quest'isola e al più presto. Assolutamente insensato. Ma che insensato? Domani non ci sarà più scampo. Prosegue Warner con la Paul Newman Collection. Ora arrivano dei nuovi titoli, alcuni assolutamente inediti, quantomeno per l'home video digitale. Si tratta dal più vecchio, Il Calice d'Argento, il film epico che ha segnato il debutto di Paul Newman sullo schermo del 54, passando per Quando l'amore è romanzo del 57 l'oltraggio di Martin Ritt del 64 e appunto Ormai non c'è più scampo dell'80. I DVD sono di ottima qualità e ritroviamo sicuramente una buona qualità audio sia per il doppiaggio italiano che per quello inglese, che ricordo nel Calice d'Argento addirittura rimasterizzato in una colonna sonora multicanale. Non sono presenti extra. E con Claudio Pofi e con i DVD si chiude come sempre la puntata della Rosa Purpura. L'appuntamento è al prossimo weekend qui su Radio 24, il sabato alle 18, la domenica alle 9 del mattino e poi tante altre repliche per parlare di tutto il cinema che c'è sul grande schermo. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.